Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Bene, il giorno dopo le tanto attese elezioni amministrative, regionali ma anche comunali, mentre si confermano tutte le proiezioni di ieri, parlo dei sindaci soprattutto, adesso diciamo i giornali hanno titolato 3-3 pareggio, rafforzato il governo Conte. Non mi interessa l'analisi politica in questo momento, mi interessa che a questo punto, passata ogni ipotesi di cosiddetta spallata, il governo non ha più elementi di preoccupazione, poi vedremo cosa capiterà a livello di compagine governativa, per andare avanti con la cosa più importante e che chiaramente per noi ma per il paese penso essere approntare un piano serio e credibile per utilizzare i fondi europei, il Recovery Fund e quindi il Recovery Plan che deve essere approntato. Abbiamo detto più volte che il modello, a mio avviso, che si può seguire è anche quello francese, è scaricabile su ogni sito il programma francese, 48 pagine, in cui si indica non solo gli obiettivi, quelli sono già conosciuti, ma anche come raggiungerli, quante risorse vengono date a ciascun ministero, per esempio trasporti, e dove vengono messe queste risorse. Non dico che si possa avere questo già da domani, ma la cosa importante è che arrivi un piano dettagliato e che si capisca anche chi gestirà, la parola cabina di regia non mi fa impazzire ma non ne conosco altre, chi gestirà il piano, diciamo l'intero piano, a chi verrà affidato, a un commissario unico, a alcuni commissari specifici, questo è già previsto su alcune opere commissariate, nel senso per dare maggiore velocità di esecuzione. Chi andrà a controllare l'esecuzione dei lavori? Io qualche idea in testa ce l'avrei, un sogno che tanto non si avvererà, lo posso dire subito, non ho nessun rapporto con i due soggetti, ma nella, quella che si chiama squadra del cuore, a me piacerebbe una cabina in cui il controllo viene fatto da Carlo Cottarelli, e così non ho mai avvisato di quello che stavo per dire, quindi penso che possa essere alquanto sorpreso. Carlo Cottarelli e Raffaele Cantone, due nomi, chiaro che uno adesso è a Perugia, Cottarelli invece presiede il centro di osservazione sui conti pubblici italiani, una persona terza rispetto ai partiti e che ha dato dimostrazione di sapere cosa significa fare attenzione alla spesa pubblica, a mio avviso è fondamentale per controllare quello che sarà poi l'applicazione, anche perché l'Europa ogni, se non ricordo male, 15 mesi, ma adesso vado a memoria, andrà a controllare come sono stati utilizzati quei soldi e quindi la realizzazione di quanto promesso. Su questo il mio timore non è solo sul piano, è anche che siccome il piano si dovrà dipanare per un tempo lungo, che poi non si perda in mille meandri. Parleremo di questo in apertura sul fronte dei prossimi passaggi del governo Conte e invece nel caso specifico delle opere infrastrutturali, perché lì c'è già un elenco, ne ha scritto anche il Sole 24 Ore. A questo proposito segnalo che proprio sul Sole 24 Ore, a partire da oggi con un intervento di Alessandro Profumo, verranno ospitate proposte concrete per realizzare questo recovery plan. Qualcuno mi dice non faccia nomi, verranno bruciati, ma guardi non si preoccupi, temo che tanto uno mi scrive, lei è amico di Calenda e di Cottarelli, non si può fare niente per guardi. Di Calenda non sono amico, ho apprezzato il modo in cui ha lavorato quando era ministro, poi non ho più parlato da quando ha fondato il suo partito. Per quello che riguarda Cottarelli non ho dubbio, insomma, potrò anche esprimere, non è un politico, non c'è la par condicio, non c'è niente, potrò dire che una figura come quella secondo me è una figura che, avendo compiuto una grande analisi sulla spending review che poi fu buttata diciamo sostanzialmente via, mi sembra una figura importante. Detto questo, C'è anche il tema del MES, ho visto che Zingaretti poco fa, il segretario del PD, ha detto adesso bisogna andare avanti sia con la legge elettorale che superare il bicameralismo, ma sul fronte economico ha chiesto che il ministro Speranza presenti un piano della nuova sanità italiana per uscire dalla discussione solo ideologica e si utilizzi il finanziamento del MES. Entriamo nel merito, usciamo da una discussione solo nominalistica. Questo per quello che riguarda la posizione attuale del PD, ma adesso vi arriveremo. Poi, dicevo, vi sarà il tema delle opere infrastrutturali, perché lì qualche dettaglio c'è in più e su questo vorremmo anche vedere poi i tempi. C'è un passaggio parlamentare che è necessario, ma insomma non cioè si va dalla messa in sicurezza della A24 al raddoppio ferroviario della Genova 20 miglia, ma anche alla parte la Roma Latina che vale 1,5 miliardi. C'è complessivamente l'intero impegno infrastrutturale, sostanzialmente vale tra i 35 e i 45 miliardi mal contati. C'è appunto i viadotti della A24 Roma L'Aquila, la Gronda di Genova, su cui si attende una risposta dell'ASPI, la parte infrastrutturale, e mi riferisco all'alta velocità per quello che riguarda Venezia Trieste, la fortezza Verona, quindi il raddoppio del Brennero, il completamento della Genova 20 miglia. Poi abbiamo visto anche l'avvio dei lotti sulla Napoli Bari, la Salaria, giustamente la Roma Pescara, e poi la diga di Genova, che non c'entra con le opere ferroviarie ma vale da sola 1 miliardo. Parleremo anche degli iter parlamentari. Vedo adesso che c'è una notizia che riguarda l'Europa, adesso la ricorderemo. Dicevo, della parte infrastrutturale, ma più in generale della parte che riguarda il recovery plan. Avremo un approfondimento sul mondo dell'autotrasporto, l'avevo promesso, poi siamo andati lunghi, come si dice in gergo, per via delle elezioni, dei temi delle elezioni amministrative. Due notizie in breve appena battute. La prima riguarda il Presidente del Consiglio Europeo, o meglio il vertice straordinario dei leader dell'Unione Europea programmato per giovedì e venerdì, viene fatto slittare perché il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel è in quarantena. Lo ha annunciato oggi il suo portavoce, perché uno degli ufficiali addetti alla sua sicurezza, con il quale è stato in stretto contatto, è risultato positivo al Covid. Il Presidente è risultato negativo invece, ma nel rispetto delle regole del Belgio da oggi è in quarantena. Segnalo invece, per quello che riguarda le notizie di carattere internazionale, nuovo attacco di Trump alla Cina. Intervenendo all'Assemblea Generale dell'ONU, ha detto: la Cina ha infettato il mondo, dobbiamo rendere responsabili la Cina che ha diffuso questa piaga nel mondo. Parlando di China virus e di nemico invisibile, e poi ha detto, ha attaccato anche la Cina sull'ambiente, vogliono punire solo gli Stati Uniti. Dura la replica cinese. Poco fa l'agenzia, la Cina respinge con forza le accuse senza fondamento. Allora, voi sapete come la pensa il sottoscritto, però nel caso insomma, io posso capire che la responsabilità su dove sia nato il virus non sia ancora stata accertata, grazie anche alle resistenze cinesi nel compiere qualunque tipo di indagine investigativa. Ho visto dichiarazioni di dissidenti, scienziati dissidenti, che dicono è nato in laboratorio. Il governo cinese continua a ritenere che sia nato nel wet market di Wuhan. Tutto quello che vogliamo, non sappiamo ancora dove è nato, però abbiate pazienza, che il virus sia di origine cinese nessuno l'ha ancora smentito. Che l'epidemia si sia propagata in Cina, nessuno l'ha ancora smentito. Che la Cina abbia negato e minimizzato è stato dimostrato dai fatti, dai comunicati, dalle note di Xi Jinping, da quello che è stato detto e anche dalla condiscendenza dell'OMS nelle prime settimane. Poi possiamo discutere, e vorremmo sapere un domani, come si è propagato questo virus, anche per evitare che si ripeta. Il laboratorio, come sostengono alcuni, invece cattive condizioni igieniche nei wet market cinesi, benissimo, però voglio dire, se fosse nato tutto in un mercato ortofrutticolo italiano, hai voglia a dire che non è nato in Italia. Quindi i cinesi si mettono il cuore in pace, perché anche se qua qualcuno, anche tra le forze politiche, strizza l'occhio alla Cina, io capisco che Trump possa stare sulle palle, però quando dice qualcosa che è vero non è che si può negare la verità fattuale. Lo dico a qualcuno che mi sta scrivendo adesso, cioè Trump sta continuando a dire lo dice per motivi suoi, il virus è nato dalla Cina. C'è qualcuno che è in grado di smentire questa affermazione, o vogliamo fare finta di niente e dire vabbè, adesso tanto tutto è passato, torniamo a farci imporre dalla Cina una via della seta, ripeto, in cui non vedo mai la parte che va dall'Europa verso l'Italia, vedo solo le frecce della Cina verso l'Italia, anche perché, e concludo, oggi l'Associazione delle Imprese del Settore anche Sanitario, si chiama Assosistema di Confindustria, ha notato come nel periodo febbraio-maggio, quando c'era una carenza fortissima di mascherine in Italia, lo ricordiamo tutti, di mascherine, di protezioni, di strumenti di protezione, allora noi abbiamo importato 1 miliardo e 100 milioni di mascherine tra febbraio e maggio, di cui il 90% dalla Cina. Poi adesso, visto che il commissario Arcuri dice che ormai siamo autosufficienti nella produzione di mascherine, non so, non ho elementi di verifica, però sicuramente non lo eravamo, perché nessuno lo era, devo dire, eravamo anche praticamente impreparati in quel periodo. Quindi più 3.120% ad aprile rispetto all'anno prima, più 2.500 a maggio rispetto all'anno prima, e più 462 a marzo. Ripeto, 1 miliardo e 100 milioni di mascherine chirurgiche importate dalla Cina. Non ce l'ho con la Cina in generale, ma non me ne frega nulla che alcuni stia più simpatica la Cina rispetto agli Stati Uniti. Io preferisco sempre una democrazia a una non democrazia, però attenzione che la Cina nella gestione del virus e anche nella comunicazione di questo virus in questi mesi è stata latitante, punto. Poi uno ha i suoi interessi, va bene, ma latitante lo possiamo dire? No, non possiamo dire neanche questo secondo alcuni ascoltatori. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. La battuta era sui mercati italiani. Noi non abbiamo mai avuto, per fortuna, un caso di virus, e devo dire che i virus in questi anni, dalla SARS, aviaria e quant'altro, arrivano sempre dall'Asia. Forse una domandina sulle condizioni igienico-sanitarie nella filiera alimentare in questi benedetti o maledetti mercati andrebbe anche fatta, oppure sarà solo una coincidenza che tutti i virus epidemici, in questo caso pandemici, si sviluppino dalla Cina. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Non ho dato un giudizio su Trump e su come ha gestito in maniera pessima, a mio avviso, l'epidemia negli Stati Uniti, negando anche all'inizio la pericolosità del virus, che pure conosceva. Ho solo detto che se Trump dice una cosa, a mio avviso corretta, che la Cina, il virus è nato dalla Cina e da lì si è propagato e ha infettato il mondo, non capisco perché non la si debba condividere. Non vi sarà una notizia, diciamo, che in parte è economica, ma non vi sarà per la prima volta dal 1944 alcuna cerimonia per la consegna dei Nobel a Stoccolma. Verrà sostituita da un evento online, lo ha annunciato la fondazione, quindi vale anche per il Nobel all'economia. Per quello che riguarda gli dati americani, oggi c'è un dato interessante, perché le vendite di case esistenti ad agosto sono salite del 2,4% per cento ai massimi dal 2006. È salita anche la fiducia dei consumatori europei a settembre, attenzione che veniva da livelli molto bassi, ed è una media sempre sotto quella di medio termine. È migliorato il clima della fiducia anche tedesca, per quello che riguarda l'indice IFO, infatti il tonfo della Germania nel 2020 dovrebbe essere meno grave del previsto. Fino adesso si prevedeva un meno 7%, adesso la Germania stima un meno 5,2%. Io faccio il tifo che sia così, anche perché noi siamo dipendenti, o meglio dipendenti, siamo i primi esportatori in Germania, ed è la Germania il nostro mercato di sbocco principale nella meccanica, ma non solo, e quindi se il PIL tedesco dovesse crollare meno delle attese, e quindi dovrebbe esserci a rigor di logica anche un parziale beneficio per l'export italiano. E invece l'impatto del coronavirus sul turismo ha costretto la catena di hotel e ristoranti britannica Whitebread e il tour operator tedesco, che è un colosso, TUI, a varare un piano di tagli. Ieri abbiamo raccontato dei tagli pesantissimi nella compagnia aerea Lufthansa. Oggi migliaia di posti di lavoro. Allora, Whitebread ha annunciato fino a 6.000 esuberi, mentre TUI, che è il primo tour operator al mondo, ha annunciato un piano di taglio dei costi del 30% su base annua e impatterà potenzialmente su 8.000 persone. Quindi, se non sono licenziamenti, poco ci manca. Dice TUI che le prenotazioni per l'estate 2020 sono in calo dell'83% rispetto all'anno scorso, mentre la capacità della stagione invernale si è ridotta di un altro 20%, al 40% rispetto al 100%. Questo per attuali incertezze relative alle restrizioni di viaggio, te credo. Poi, per quello che riguarda Whitebread, insomma, chi conosce la Gran Bretagna sa che, insomma, è un colosso vero e proprio. Controlla hotel, ristoranti, la catena alberghiera low cost Premier Inn, e vuole tagliare 6.000 posti di lavoro nel gruppo. Del gruppo fanno anche parte i ristoranti Beefeater, Brewers Fair. Insomma, queste sono le prime notizie, o meglio la conferma di notizie di quanto sta avvenendo in Gran Bretagna, dove tra l'altro è arrivata anche una stretta sugli orari dei pub oggi, sulla scia di Francia, Spagna e di altri paesi. Ha confermato come reale Boris Johnson la prospettiva di una seconda ondata e ha ripristinato i limiti da giovedì ai pub, ristoranti e ai bar di tutta l'Inghilterra. Coprifuoco alle 22, è tornato a incoraggiare il lavoro da casa e ha esteso l'obbligo legale della mascherina e il tetto massimo delle 6 persone nei contatti sociali, cioè negli eventi anche privati. Johnson ha fatto notare che negli ultimi giorni i ricoveri in ospedale sono raddoppiati e che il livello di allerta è salito a 4. L'unica battuta che si può fare è che la chiusura del pub alle 22 non è tanto presto in Gran Bretagna, dove si mangia tra le 6:30 e le 7, e voglio dire, insomma, non è come chiudere un ristorante o un bar in Italia alle 22, almeno questo per gli inglesi lo dico. E comunque queste restrizioni dureranno per 6 mesi. Veniamo all'Italia. Lo spread è sotto i 140 punti, questo è un effetto, secondo tutti gli osservatori, dell'esito elettorale, cioè l'assenza di una spallata al governo, il pareggio tra centrosinistra e centrodestra, o comunque tra governo e opposizione, viene visto come un elemento di stabilità. Devo dire che l'analisi di tutti i quotidiani oggi, per il governo Conte lo spread cala ai minimi da agosto, da metà agosto, mentre l'Istat oggi ha confermato che la frenata dell'economia italiana era già iniziata nel 2019 con un più 0,3%. I dati poi sono tutti del 2019, a questo punto sembrano del secolo scorso. Ancora qualche notizia che riguarda invece la settimana della moda di Milano, che si è aperta. A luglio fu fatta un'edizione completamente digitale, a febbraio arrivò praticamente in concomitanza con Codogno, e era il 21-22 febbraio, se non ricordo male, e quindi con i primi lockdown. Allora, è partita da oggi fino al 28 settembre. C'è una formula a metà, si chiama Figital, metà fisica e metà digitale. Sono 159 appuntamenti in calendario, 64 sfilate, di cui 23 live, quindi in presenza fisica, e 41 in remoto. Per un settore che vale 90 miliardi di euro nel nostro paese, e tra l'altro il 75% della moda italiana va nel mercato estero, le attese per quest'anno sono di una perdita di fatturato del 30%, come ha ricordato la nostra Maria Luisa Pezzali, Carlo Capasa, che è presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana. Siamo in un momento in cui dobbiamo dimostrare, perché la moda ha sempre fatto da apripista, che bisogna trovare una strada di convivenza con il virus, con questa situazione. Dobbiamo cercare di convivere applicando delle norme molto accurate, molto attente, ma andando avanti per non fermare la nostra industria. Il settore in questo momento è in grave sofferenza perché molti mercati sono fermi, soprattutto l'Europa e gli Stati Uniti. Si è ripreso a partire da giugno la Cina e il Far East, quindi lì i numeri iniziano a girare, ma prevediamo una fine anno con percentuali che vanno dal meno 25 al meno 30% di fatturato rispetto allo scorso anno. Sono in molti a sottolineare l'esigenza comunque di un cambiamento. In molti chiedono anche un ripensamento dei tempi della filiera. Lei cosa ne pensa? No, io penso che questo momento di difficoltà sicuramente ha accelerato dei processi già in corso. La moda riscopre la sua attitudine sempre a guardare avanti e quindi a includere la sostenibilità, che è importante in questo momento, e a includere l'inclusione della diversità. Questi due temi comportano maggiore attenzione ai tempi di produzione, maggiore attenzione alle produzioni che non siano troppo esagerate, esasperate, sia nei tempi che nelle quantità. Quindi diciamo ci allontaniamo da quella filosofia del fast fashion, dell'usa e getta che ha dominato negli ultimi anni, per andare verso una filosofia più conforme ai temi moderni che dobbiamo affrontare. La sostenibilità su tutti. Allora, adesso andiamo sul metro pubblicità, poi iniziamo a parlare dei dossier di riforma mercato del lavoro, i dossier del recovery fund, all'iniziativa del governo in primis, e poi andiamo invece sulla parte infrastrutturale. No, mi sono fermato perché vedo molti messaggi che dico: ma lei come fa a definire l'America una democrazia? Non mi sembra che... Guardate, non scherziamo sui termini, abbiate pazienza. Uno può stare simpatico o antipatico Trump, ma Trump è stato eletto, poi non può contestare il meccanismo di elezione americana, ma è stato eletto. Non ho visto elezioni in Cina per eleggere Xi Jinping. Trump si è scontrato col suo virologo, diciamo col virologo di riferimento Fauci, più volte, sbagliando molte volte, cioè, ma che la gestione di Trump interna sia stata quantomeno debole, se non fallimentare, lo dimostra la difficoltà che ha nel risalire i sondaggi con Biden. Però non scherziamo, Trump avrà criticato malamente, in maniera impropria, goffa, Fauci. In Cina il medico che aveva denunciato, che aveva scoperto il Covid, l'hanno messo in prigione, salvo poi riabilitarlo quando era morto. Per favore, non scherziamo sulle categorie. Una democrazia funzionerà male, bene, tanto rappresentativa, poco rappresentativa, ma quello è distinzione dei poteri, separazione dei poteri. Qualcuno, se vuole, scrivermi sulla separazione dei poteri in Cina, cioè tra magistratura e anche tra autorità bancarie e governo, me lo scriva per favore, perché mi sono perso qualcosa forse in questi anni. Ma nel frattempo andiamo con il meteo e la pubblicità. Focus Economia. Dunque, il governo adesso, senza più, non alibi, non scuse, ma senza più timori per quello che riguarda l'esito delle elezioni. Mi stanno contestando alcuni ascoltatori perché ho detto 3-3, pareggio, ma anche la Val d'Aosta 4-3, per carità. Però in questo caso i voti, come direbbe Cuccia, si pesano, non si contano, perché è chiaro che il pareggio è dovuto al fatto che la temuta o attesa passaggio della Toscana e della Puglia al centro, al destra, all'opposizione, non è avvenuto. Comunque adesso non ci sono più elementi così che possono rallentare l'attività di governo e speriamo che vada avanti. Iniziamo con il ministro Catalfo, che io ho semplicemente, a cui ho chiesto se ha un senso mantenere il pubblico impiego a casa in pseudo smart working fino al 31 dicembre. 800, dunque, 11 progetti per il mercato del lavoro, ha detto il ministro del lavoro e politiche sociali davanti alla commissione affari sociali del lavoro della Camera. Detassazione dei rinnovi contrattuali dei contratti nazionali del lavoro con il salario minimo, sgravi contributivi per il rilancio dell'occupazione, riforma degli ammortizzatori più snelli e universali, quota 100 resterà fino al 2021, poi un altro tipo di flessibilità. Sentiamo la Catalfo. Nell'ambito del Recovery Plan, quindi, abbiamo individuato 11 progetti, tra loro distinti ma strettamente connessi, accomunati dall'obiettivo di ridurre le disuguaglianze che ad oggi caratterizzano il mercato del lavoro italiano, puntando a realizzare un miglioramento non solo da un punto di vista quantitativo in termini di aumento del tasso di occupazione, ma anche sotto il profilo qualitativo. Intendiamo costruire un mercato del lavoro che sia più competente, puntando sulla formazione e sulla riqualificazione, soprattutto nei settori del verde e del digitale, più inclusivo, che coinvolga paritariamente uomini e donne e garantisca un'adeguata protezione sociale e inclusione attiva ai soggetti più vulnerabili, più trasparente attraverso una mirata lotta al fenomeno del caporalato e altre forme di lavoro irregolare, più digitalizzato anche attraverso la realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati e del fascicolo elettronico unico del lavoratore. Infine, più sicuro, accogliendo un'accezione di sicurezza ampia che non solo comprenda la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ma si traduca anche in una maggiore protezione del lavoratore e nell'incremento della stabilità e qualità del lavoro stesso. Allora, vediamo se riesco a dare un'anticipazione della linea editoriale di questo programma, quantomeno. Quello di cui questo paese ha bisogno, digitalizzazione della pubblica amministrazione in questo caso, almeno qui lo sappiamo da sempre. Lo sanno anche i sassi ormai. Sburocratizzazione, riforma della giustizia civile in primo luogo, gli investimenti. Adesso vorrei passare dagli obiettivi alla realizzazione. Ecco perché cito sempre il piano francese, che appunto cita non solo gli obiettivi, li conoscono già, ma anche come realizzarli e quanti soldi mette per ogni voce. Non voglio vivere la sindrome di Miss Italia, con tutto rispetto per Miss Italia, che insomma, quando le si chiede qual è la sua speranza, la pace nel mondo, va bene? Perché anche la pace nel mondo va spiegata come obiettivo, quindi digitalizzazione, tutto quello che volete. Dino Pesole del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano, eccomi. Dunque, anche tu immagino sia per la pace nel mondo, ma andiamo sì. a Misiani, vice ministro dell'economia, oggi Radio 24, ha detto i progetti saranno nell'ordine del centinaio. Lo svolgimento è in corso e sarà assolutamente drastico rispetto ai numeri che sono circolati in questi giorni, sia dal punto di vista del numero dei progetti che naturalmente dell'entità finanziaria complessiva, che deve rimanere all'interno dei 209 miliardi che sono stati assegnati al nostro paese. Misiani, avete un obiettivo sul numero di progetti, più o meno? Giudichiamo la qualità dei progetti, ma il numero sarà drasticamente inferiore rispetto alle cifre che sono circolate in questi giorni. Nell'ordine del centinaio? Potrebbe essere un ordine di grandezza. Beh, anche perché ne erano arrivati 560 che valevano tre volte l'intero importo del recovery, debiti inclusi. Allora, per quello che dunque adesso vedo, scusami Dino, ma vedo un'agenzia del Premier Conte, visto che Zingaretti oggi ha detto chiederò al ministro Speranza di darci un piano dettagliato sugli investimenti nella sanità e anche di iniziare a ragionare del MES senza parocchi, senza nominalismi e guardando il MES dentro nel merito. Usciamo da una discussione nominalistica, entriamo nel merito. Poco fa ha detto il Premier Conte le risorse finanziarie sono un problema successivo, prima bisogna elaborare un piano per rafforzare la sanità, dopodiché andremo a vedere quanto costa questo piano, si MES o non MES è una questione pregiudiziale su cui non mi pronuncio. Però si è pronunciato invece Misiani, Dino, ti farei ascoltare anche di nuovo il vice ministro dell'economia con Simone Spezia, che ha detto siamo Misiani del PD, siamo ragazzi determinati, spero che si colga il segnale dell'elettorato. Ma guardi, noi siamo dei ragazzi piuttosto determinati, siamo convinti delle nostre ragioni, siamo convinti che sia necessario rafforzare la sanità. Riuscite a convincerli o no? Ma noi speriamo che veti ideologici e pregiudiziali vengano via via superati. Le elezioni possono aiutare sotto questo aspetto, secondo lei, Misiani? Speriamo che sia stato colto il segnale che viene dall'elettorato italiano, che ha premiato peraltro innanzitutto la gestione della pandemia da parte di tante amministrazioni regionali. E non ha premiato, devo dire, i 5 Stelle da questo punto di vista, per quello che riguarda il governo. Poi uno può ragionare dell'opposizione, abbiamo visto tanti articoli su Salvini, il grande sconfitto per via del triplo successo di Zaia, perché ha triplicato i voti della Lega e non aver preso Toscana e Puglia. Ma insomma, io adesso vorrei parlare del governo, perché sono loro che poi devono decidere. Allora, Dino Pesole, già il fatto che Conte dica prima bisogna elaborare un piano non mi fa stare tranquillo. Io speravo che il piano sugli investimenti in sanità fosse già stato elaborato, però dopo con il collega Giorgio Santilli andremo ad analizzare i piani infrastrutturali. Diciamo, dammi un quadro sia politico ma anche di agenda di politica economica, perché tanto insomma l'analisi politica la faccio, è da 24 ore che, diciamo, che inonda tutti i media. Prego. Allora, se noi proviamo a trasferire sul fronte dell'agenda di governo il risultato elettorale di ieri e i mutati equilibri e i rapporti di forza all'interno della coalizione di governo, ne dovremmo concludere che l'agenda di governo dovrebbe essere accelerata con un peso maggiore delle istanze che porta avanti il Partito Democratico. Ne consegue che dovrebbe a questo punto emergere in primissimo piano il nodo di come finanziare sul doppio binario quella che è l'emergenza, una delle emergenze del nostro paese, cioè rendere il sistema sanitario molto più forte e sostenibile rispetto al rischio che ci sia un'altra ondata, o comunque anche se non ci sarà, noi dobbiamo rafforzarlo. E per la verità un piano c'è già. Il ministro Speranza nelle scorse settimane ha messo su un piano dettagliato che, guarda caso, ha un costo più o meno dell'importo del MES, vale a dire attorno ai 36 miliardi. Poi ovviamente accanto a questo bisogna lavorare sul recovery plan, sulla parte che non è di emergenza ma è sostanzialmente più strutturale, quindi due strumenti possono correre in parallelo. Io mi aspetterei a questo punto che il Presidente del Consiglio andasse in Parlamento da qui a un mese, diciamo, a chiedere l'autorizzazione ad attivare il MES, ovviamente previa consultazione politica, anche perché certamente non va a rischiare, soprattutto al Senato, che venga bocciato. Però io immagino che anche 5 Stelle, che hanno avuto un risultato elettorale molto deludente al netto dell'esito del referendum, che però è tutt'altra cosa. Sì, però il referendum non è che si può attribuire a un solo partito, è un cavallo di battaglia dei 5 Stelle, ci mancherebbe, però insomma, certo. Immagino che, viste le proporzioni del successo dei sì, abbiano partecipato elettori di altri partiti, se no non capisco più come mai i 5 Stelle vanno ai minimi quando c'è il voto sulle regionali e poi il referendum va al 60%. Comunque ti ho interrotto, scusa. No, era soltanto per concludere il ragionamento, per dire che all'interno del programma di governo, ora il PD dovrebbe passare all'incasso, non parliamo della parte che riguarda le riforme istituzionali, la riforma elettorale, il completamento del percorso, perché fa parte dell'accordo di governo. Parliamo però delle sfide che attendono il Paese da qua a dicembre, con la legge di bilancio e la messa a punto dei progetti, 100 dice Misiani, fanno benissimo, ci facciano capire al più presto di che cosa si tratta e soprattutto che questi progetti vengono accompagnati da un dettagliato cronoprogramma in cui si dica in quali tempi vengono realizzati, con quali costi e rispettarli questi tempi. Cioè, all'interno di questo discorso è chiaramente l'equilibrio politico che ora si determina dopo il risultato elettorale avrà un peso, immagino. Allora, due elementi. Tu parlavi di incasso, io più che di incasso parlerei di peso, nel senso che a molti è sembrato che il PD non riuscisse a imporre una sua linea, non dico alternativa perché ha il governo con i 5 Stelle, ma imporre in maniera più forte, anche perché ricordiamo che nel Parlamento invece la proporzione è l'opposto, perché il Parlamento è il risultato delle elezioni del 2018, c'è un'ampia netta maggioranza dei 5 Stelle rispetto al PD. tu immagino con l'incasso, come dire, adesso però attenzione, perché se il risultato elettorale al regionale è stato così deludente per i 5 Stelle, apro e chiudo una parentesi, ma perché alcuni mi danno dello sciacallo se dico questa cosa dei 5 Stelle e quando dico che invece la Lega non ha sfondato, che Salvini non ha ottenuto la Toscana, che Zaia ha avuto un successo, lì nessuno mi dà dello sciacallo. Cioè, se sono sciacallo, sono sciacallo anche quando parlo della Lega, abbiate pazienza. Non è che sono sciacallo solo se dico che 5 Stelle hanno ottenuto un risultato minimo, ma i numeri sono lì. In Veneto sono scomparsi, in Puglia sono a minimi storici, che altro devo aggiungere? Cioè, di cosa stiamo parlando? Se guardiamo i numeri, poi uno può essere d'accordo con i 5 Stelle, d'accordo con la Lega, d'accordo con il PD. A me interessa capire come adesso si esce da uno stallo di Nopesole, che c'era, perché era inutile girarci attorno. Conte si è tirato fuori, ma voleva anche lui attendere l'esito di questa tornata elettorale, no? Immaginiamo se fosse finita 7-0, staremmo facendo un altro ragionamento anche su un rimpasto, che ne dica il Presidente del Consiglio. Adesso che questo spauracchio non c'è più, vorrei capire se avremo qualche elemento in più per dare un'accelerata non agli obiettivi, non alla pace nel mondo, ma a come raggiungere questi obiettivi. Beh, io penso oggettivamente di sì, perché il Movimento 5 Stelle ha portato a casa il reddito di cittadinanza e il taglio dei parlamentari, che sono le due grandi cavalli di battaglia, certo. Adesso si ragiona nel merito di qualcosa che ha a che fare con i prossimi 3-5 anni e va impostato immediatamente. Cioè, adesso non si può più perdere tempo, non siamo ancora alle prese con un'imminente tornata elettorale, l'abbiamo celebrata, a questo punto ci si mette al lavoro, 100 progetti, benissimo, però io mi aspetterei che, è vero che partiranno a gennaio, però con la legge di bilancio e già con la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza che arriva tra qualche giorno, beh, un'indicazione di percorso ce l'aspettiamo. Ad esempio, se si tratta di lavorare sul fronte della riforma fiscale, che si dica con quali tempi e con quale risorse la si finanzia. Questo non è proprio banale e secondario. No, anche perché qua dobbiamo mettere due paletti prima di concludere. Il primo, che l'Europa ti ha detto che tendenzialmente non puoi fare la riforma fiscale con i soldi del recovery, però che all'interno delle riforme che l'Europa ti ha chiesto e chiede anche, diciamo, per avere i soldi, c'era la tassazione, perché l'Europa da sempre ci dice che è troppo alta la tassazione sul lavoro e andrebbe spostata a altre forme di tassazione, che sia sull'IVA, che sia di altro genere, ma è troppo alta quella sul lavoro. E questo è il fronte, diciamo, europeo. Dall'altro, però, puoi anche ricordare, Dino, perché dici il primo gennaio? Cioè, nell'approntare la manovra quest'anno, il governo potrà ragionevolmente iniziare a dire attenzione, alcune entrate, o meglio, alcune uscite mi verranno coperte dal recovery, anche perché sappiamo che si può anticipare fino al 10% del totale già per le spese effettuate in precedenza. Sì, beh, io credo che già nell'interlocuzione che c'è stata con la Commissione europea nei giorni scorsi, con Ursula von der Leyen, ma soprattutto con Paolo Gentiloni, si è arrivato sostanzialmente all'intesa che con le risorse del recovery si possa finanziare un percorso triennale di decontribuzione, che era quello che era già stato messo in campo dal governo Renzi, che è durato 3 anni. Essendo questa una misura temporanea, si può tecnicamente finanziare anche con i soldi del recovery fund. Non lo si può fare se si mette mano alla struttura del prelievo, perché questo ha carattere permanente e quindi va finanziato diversamente. Però già avere questa indicazione di percorso, cioè, come dire, dal 1 gennaio partiamo con questa decontribuzione, quindi chi assumerà avrà questo sgravio dal punto di vista. Sì, che sarebbe già importante, anche perché verremo dallo sblocco dei licenziamenti, quindi un'ondata, ahimè, temo, spero di sbagliarmi, di licenziamenti. E quindi poter dare alle imprese che magari licenziano, perché fanno anche un calcolo in molti casi, e per assumere, abbiamo visto che c'è stato anche un blocco delle assunzioni sotto tempo determinato, ma poter dire va bene, ma se tu assumi hai uno sgravio contributivo importante, quello che fu lo sgravio di Renzi, che se non ricordo male valeva fino a 8.500 euro all'anno, esatto, di contributi, esatto, non è pochissimo per un lavoratore, soprattutto se non stai parlando di una figura apicale nell'azienda, ma stai parlando di un neoassunto, non è poco. Esattamente. E questo andrebbe fatto e andrebbe detto rapidamente per dare certezza alle imprese. Poi si può anche immaginare che in parallelo si metta in piedi una riforma più complessiva del prelievo, che avrà i suoi tempi, avrà le sue fonti di finanziamento. ultima domanda per te. Secondo te esiste, al di là dei partiti politici, un problema di sottorappresentazione del nord, inteso non come area geografica, ma inteso come la parte produttiva del paese, quindi il centro-nord, diciamo Marche, Emilia, Toscana, Veneto, Lombardia, Piemonte, Friuli, Trentino Alto Adige, Val d'Aosta, se no si incavano di nuovo, dentro il governo? Non è un tema solo di, diciamo, di residenza, è un tema proprio di sensibilità verso alcune istanze. Ma in parte sì, come abbiamo visto anche dal decreto agosto, c'è un provvedimento che riguarda la fiscalità di vantaggio del sud, l'opportuna è fondamentale. Adesso in queste ore il ministro Amendola è proprio a Bruxelles a trattare esattamente su questo fronte, perché andiamo in deroga alla disciplina degli aiuti di Stato, quindi bisogna capire se ci sarà un via libera, ma io immagino di sì, poiché è stata congelata. Però c'è un tema complessivo che va affrontato, che è la struttura produttiva, l'asse importante di questo paese, e quindi certamente va dato un segnale. Per questo dico che è fondamentale che il governo non aspetti il 31 dicembre, quando sarà in gazzetta ufficiale la legge di bilancio, per far capire in che direzione si andrà, ma che lo dica adesso, o già con la nota di aggiornamento. Faccio una nota a mano. No, ricordando, non so quanti abbiano esperienza di impresa nel governo, che le imprese pianificano a mesi, adesso una volta si pianificava ad anni. Ormai l'orizzonte si è così accorciato che si pianifica a anno e forse a mesi, però hai bisogno di mesi. Se io sto decidendo se fare o no un'assunzione, sto facendo una valutazione, magari voglio figure professionali più giovani e vorrei, devo saperlo adesso o adesso o a novembre, non posso saperlo hai ragione tu in gazzetta ufficiale, così come altre iniziative che spero che coinvolgano anche il pubblico impiego in maniera un pochino più incisiva. Dopo nel ringraziare Dino Pesaro andiamo su GR24, parleremo adesso invece del settore trasporto, sia per gli investimenti in infrastrutture, e lì qualche dettaglio in più ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo noi ma il governo l'ha fornito, sia per il mondo dell'autotrasporto, che teme moltissimo, lo dico, il tema l'abbiamo sollevato noi con Simone Spezia il 24 mattino la settimana scorsa, teme sostanzialmente un aumento delle accise sul diesel d'autotrazione, sul gasolio d'autotrazione, come conseguenza del venir meno di un insieme di sgravi. Ne parliamo dopo il GR24, darò anche la borsa, ragione l'ascoltatore, non ho dato la chiusura. Tutti i mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri. Ma dal 23 settembre, tutti i mercoledì, parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAPP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli. Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro. Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti. Programma realizzato in collaborazione con INAPP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Focus Economia. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, prima di arrivare al piano infrastrutturale e alle esigenze dell'autotrasporto, vorrei dare l'aggiornamento dai mercati finanziari per quello che riguarda la borsa di oggi. Eccolo in apertura, vedo ancora molti messaggi su, adesso non possiamo fare tutto in una volta, e io non ho detto che non si debba dare tempo al governo, meglio un giorno in più di un piano dettagliato che non un giorno in meno con un piano così teorico e del tutto vago, però deve arrivare questo piano. Comunque i mercati oggi hanno tentato un rimbalzo, la parola mi sembra più corretta, perché il rimbalzo è molto molto parziale dopo i cali forti di ieri, e tant'è che se Milano guadagna lo 0,50, Parigi fa meno 0,40, Francoforte più 0,40, Dow Jones invariato, Londra più 0,40%, recupera parzialmente Fiat più 2,80, Interpump più 2,1, Unipol più 1,60 come Nexi, l'1,5 guadagna CNH e anche Atlantia ed Eni, l'1,40 rialzo di Poste, l'1,30 quello di Prismian e di Recordati. Fronte opposto, Leonardo, ex Finmeccanica, meno 3%, Unicredit, meno 1,90%, Moncler, meno 1,5%, Saipem, meno 1,30%, Banca Generali, meno 1,1%, come Tenaris, Inuit, meno 1%. Dunque, la ministra delle Infrastrutture Paolo De Micheli ha consegnato giovedì al presidente del Consiglio Conte la lista delle opere infrastrutturali da commissariare in base all'articolo 9 del decreto semplificazioni. Ce ne eravamo occupati, il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 7 luglio, pubblicato il 16 luglio ed è convertito in legge. Allora, quello che vede meno rischi per i funzionari pubblici, quindi modifiche al tema di abuso di ufficio e responsabilità erariale e poi meno vincoli sulle ristrutturazioni e cantieri più rapidi, per esempio l'appalto diretto sotto i 150.000 euro e senza bando per gli appalti fino a 5 milioni. Ma ci sono a fianco di questo le famose opere infrastrutturali e quindi le opere da sbloccare o sbloccate. Perché lo dico? Perché erano 130 per un piano, il piano si chiama Italia Veloce, da 200 miliardi di euro, di cui 131 già disponibili. Strade e autostrade avrebbero un valore di 54 miliardi, le ferrovie 113 miliardi, 60 di risorse stanziate, 53 di fabbisogno, il trasporto rapido di massa nelle città metropolitane 20 miliardi, 19 stanziati, 2 di fabbisogno, i porti 5 miliardi con 4 miliardi di risorse stanziate, 1 miliardo di fabbisogno, gli aeroporti 3 miliardi. Ne ha scritto Giorgio Santilli, che ringrazio, sulle 24 ore, chiaramente la firma e anche la fonte per quello che mi riguarda quando parliamo di opere infrastrutturali. Giorgio, buonasera. Ciao Sebastiano, buonasera. Allora, tu hai spacchettato questi dati che io ho dato in maniera, diciamo, così aggregata. Intanto, per far chiarezza, è chiaro che ci sono 130 opere da 200 miliardi, però qui stiamo ragionando di quelle da commissariare e quindi da snellire come procedura, se ho ben capito. Sì, ovviamente si incrociano in questo momento temi e orizzonti temporali molto diversi fra loro. La pianificazione di cui parlavi, chiamata Italia Veloce, appunto, è sostanzialmente quella che il Ministero delle Infrastrutture ha proposto al governo, quindi al Comitato Interministeriale per gli Affari Europei, proposta da inserire all'interno del Recovery Plan. Lì dentro ci sono opere che saranno realizzate o sarebbero realizzate nel corso dei prossimi, diciamo, 10 anni, a essere ottimisti, e in parte, come dicevi, sono già finanziate, hanno già delle risorse finanziarie, in altra parte devono essere completate anche sul lato del finanziamento. Questo è un quadro che va avanti, nel sentivo che ne parlavi, appunto, forse con qualche tentennamento, con qualche incertezza, ma sostanzialmente è un percorso che si farà da qui a gennaio, si presuppone. Poi esiste diciamo un altro tema, e in parte il decreto sblocca cantieri a questo tema si rifà. Sì. Ma che facciamo nel frattempo? Cioè, in attesa di avere la pianificazione, il via libera dell'Europa, eccetera, che cosa facciamo? E il governo, nel decreto sblocca cantieri, ha messo questo articolo 9 che potenzia, rafforza molto la figura dei commissari, quindi ne rafforza i poteri sostanzialmente. Quindi, ed scusami, ecco qui, per farmi capire, i 42 miliardi stimati dall'ANCE, e tu stimavi, sì, una cifra un po' più bassa, se... Sì. 41, se non ricordo male, sono quelle, diciamo, commissariate, da commissariare, cioè dei 200, esatto, miliardi complessivi, esatto, quelle da far partire subito, insomma, forse eccessivo, da far forse partire il prima possibile, mettiamola così. Esatto, perché poi questi commissari intervengono a vari livelli. Se vedo per esempio il potenziamento tecnologico della Salerno-Reggio Calabria, lì c'è un progetto di massima, quindi il commissario dovrà occuparsi di fare il progetto definitivo e quindi poi la gara, o se non fa la gara, l'affidamento diretto, e poi portare l'opera, diciamo, a cantiere. Però certamente i commissari hanno l'idea di accelerare questi interventi. Quindi sono stati scelti alcuni interventi che, per complessità, perché in qualche modo un pezzo di strada l'hanno già fatta, quindi possono effettivamente essere accelerati, possono andare avanti un po' più alla svelta, diciamo così. Questi commissari... E valgono 41 miliardi. Allora, che... Allora sì, ti spiego la doppia cifra. I 41 miliardi sono il valore dell'opera, e quindi diciamo il complesso di queste opere valgono 41 miliardi. Però una parte di queste opere sono già state realizzate, alcune di queste opere già hanno fatto un piccolo tratto. Quindi qui i 30 miliardi di cui dicevi sono soltanto la parte che residua, che resta che manca, e che quindi deve essere... Faccio l'esempio della Fortezza Verona, che è un'opera fondamentale anche verso il Brennero. L'opera vale 3.371 milioni, però una parte è già stata realizzata, circa un miliardo, per cui ne restano 2.373. Quindi 30 miliardi, quando diciamo abbiamo titolato... Ho capito, quindi dici perché su 41, 11 sono già stati impegnati, già stati utilizzati. Allora, ti chiederei ancora due cose, Giorgio. Da prima, se ci puoi elencare, non tutte chiaramente, ma insomma le opere principali. Ho visto che, per esempio, Maurizio Gentile, amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, che è in uscita... che è già commissario per le ferrovie Napoli-Bari, l'alta velocità, e Catania-Messina-Palermo, e viene dato come papabile, come commissario forse complessivo, per almeno per la parte ferroviaria. Però le opere, e che cosa dovrebbe snellire, accelerare la procedura? Allora, anzitutto va detto che la scelta è stata una scelta molto drastica. I commissari saranno nominati dopo, questo è un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, De Michele, DPCM, una proposta. DPCM definirà l'elenco delle opere, poi successivamente saranno nominati i commissari, quindi manca ancora qualche passaggio ad avere i nomi. Però la scelta che già ha fatto il governo è di nominare dei tecnici. Citavi Gentile, che al di là del fatto che è amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, sia pure in uscita, quindi ha un'esperienza un po' a tutto tondo, però è un tecnico che viene da quel mondo. Quindi infatti non a caso ha fatto il commissario per le due opere principali che le ferrovie stanno realizzando in questo momento a sud, la Napoli-Bari e la Palermo-Messina-Catania. Quindi ha un'esperienza notevole, lascerà Rete Ferroviaria Italiana quando sarà nominato il nuovo vertice. La ministra De Micheli ha pensato, secondo me correttamente, che la sua esperienza può essere messa al servizio di alcune altre opere. Ora, circolano varie voci e ipotesi su questo, che potrebbe anche diventare commissario di alcune opere autostradali come la Roma Latina e la messa in sicurezza della Roma L'Aquila, Roma Pescara, oltre a quelle ferroviarie. Però credo che su questo forse i giochi non sono ancora totalmente fatti. Ecco, l'elenco delle opere principali, alcune le hai già dette: Napoli-Bari, Catania-Messina-Palermo, Fortezza-Verona, immagino anche la Milano-Trieste, Milano-Venezia, esatto, sull'alta velocità, perché c'è, questa è strada ma c'è anche molta autostrada, e questa è ferrovia ma c'è anche molta autostrada. Sì, ci sono molti interventi, tipo la Ionica, che è un classico, il terzo lotto credo sia bloccato da almeno da 4-5 anni, nonostante fosse lì per essere appaltato, adesso forse è partito, ma insomma, poi questi commissari intervengono a vari livelli: accelerazione del progetto, le autorizzazioni sul territorio, quando il cantiere è già in corso, sbrogliare magari qualche problema di contestazione su singole varianti, eccetera. Quindi diciamo ha uno spettro, questi commissari, a differenza di quelli precedenti del decreto giallo-verde di un anno e mezzo fa, questi hanno poteri quasi Genova, per capirci, quasi modello. Bene, io sono contento, perché senza poteri in deroga qua non si riesce a fare niente. Poi i commissari andranno controllati, ci mancherebbe, ma e manca solo sì, è un'opinione del tutto personale, lo dico, però prego. Uno dei nodi era la contabilità, qui si dà una contabilità speciale, quindi avrà delle risorse che ovviamente saranno poi rendicontate, avrà delle risorse per muoversi, per fare pezzi in avanti di queste opere. Volevi sapere qualche, insomma, la Ionica l'abbiamo detto, ci sono un po' di la Roma Latina, che peraltro è un po' in dubbio, c'è qualche contestazione politica dei 5 Stelle, non ho capito se arriva in porto o meno. C'è la Grosseto-Fano, c'è la strada dei parchi che abbiamo detto, c'è la rete viaria in Sicilia e in Sardegna per rimettere un po' a posto il tutto. E c'è poi anche la parte che riguarda Roma, se ben ricordo, come parte stradale, no? Sì, la principale appunto l'opera più importante su cui c'è forse un piccolo intoppo politico è la Roma Latina, e poi c'è importantissima l'Adriatica, la 12 da Tarquinia su fino verso la Toscana. E il completamento del raddoppio della Pescara-Bari, della Roma-Pescara e quant'altro. Questo per quello che riguarda. Qualcuno mi dice: ma fanno una terza corsia sul Brennero? No, io il raddoppio si parlava della parte ferroviaria, no? È il nuovo tunnel, però. È il nuovo tunnel, perché deve andare a portare. Se tu non fai, voglio dire, è un po' come il ponte sullo stretto: se tu fai solo raddoppi il tunnel su Brennero, ma non ampli poi da Fortezza, cioè quando entri in Italia verso Verona, crei un imbuto uguale. Ecco perché a me non convince il ponte sullo stretto. Ultima domanda, Flash: allora, quindi, se ho ben capito, è attraverso i poteri dati a questi che verranno dati a questi commissari che arriverà lo snellimento della parte procedurale, della parte poi pratica? Sì, nel senso che potranno sostituirsi alle stazioni appaltanti, certo dovranno andare a discutere, che so, col Ministero dell'Ambiente della valutazione ambientale, non è che quella fase lì viene aggirata, però certamente si pensa che almeno tutti i passaggi interni a una stazione appaltante siano accelerati, perché nel momento in cui, un po' come è successo, diciamo la verità, a Genova, no? Cioè il sindaco è stato molto bravo, Bucci è stato molto bravo, soprattutto perché si alzava la mattina, andava negli uffici, prendeva il parere, e alla sera andava all'altro ufficio. Quindi, come diceva lui, metteva in parallelo, cioè anziché tenere in parallelo aspettare che uno finisse, no? Che finisse un procedimento per cominciarne un altro, ne metteva in parallelo due o tre, così riusciva poi ad accelerare il tempo. Ma ben venga, comunque cosa velocizzi. Non sono d'accordo con chi mi dice è tutto va al sud. No, per esempio le dighe vanno al sud, ma sappiamo che il problema della dispersione idrica e dell'approvvigionamento idrico è soprattutto al sud. Ma la Fortezza Verona non mi sembra al sud, la Milano-Venezia non mi sembra al sud, e via così. Un'ultima cosa: c'è anche la Gronda tra le opere prioritarie da commissariare? No, la Gronda non c'è. La Gronda... te l'ho chiesto perché lì sappiamo che insomma il tema è politico, certo. Allora, invece sono d'accordo con chi dice che chiarezza Giorgio Santilli, è per quello che lo invitiamo, perché almeno uno chiaro ogni tanto invece del conduttore ce l'abbiamo. Grazie anche a Giorgio Santilli, che riavremo ospite una volta che appunto verranno fatti i vari passaggi che tu ricordavi, a partire poi dall'elenco e dalla nomina dei commissari. E a mio avviso è anche molto chiaro quello che ha detto Santilli, e cioè non è la parte che andiamo a chiedere all'Europa, questo è un modo per far partire i cantieri dove ci sono già delle disponibilità, in attesa di presentare poi il piano all'Europa e di avere, diciamo, il via libera al finanziamento di un altro gruppo di opere infrastrutturali, visto che complessivamente sono 130 e valgono 200 miliardi. Qui stiamo parlando solo di 30 miliardi. È ovvio che tutte le opere non possono essere finanziate dall'Europa, anche perché il recovery vale 203 nel complesso, quindi non riuscirai a fare tutto, però 131 di questi 200 sono già disponibili, quindi poi in realtà la differenza fa 70 miliardi, di questi 70 miliardi 30 possono essere già fatti avviare come appalti, come lavori, grazie all'uso dei commissari. Speriamo che si proceda così, con un doppio binario, andiamo avanti con quello definito prioritario da commissariare, e nel frattempo presentiamo i progetti seri, concreti all'Europa per la restante quota, gli altri 40-50 miliardi che dovessero essere. Grazie Giorgio Santilli. Traffico, e poi restiamo però in tema di trasporti. Blumatica, il software scelto da ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti. Vi presento. Osserviamo la specie del ristoratore nel suo habitat digitale, il locale senza pareti. Notiamo come serve i suoi clienti ovunque si trovino. Grazie a Vodafone Business, infatti, ha sviluppato nuove abitudini, come la gestione digitale delle ordinazioni, sia al tavolo, sia per il delivery. Il tuo lavoro digitale, le nostre soluzioni per arrivare ovunque. Chiedi al tuo consulente Vodafone Business o vai su voda.it/localedigitale. Ready? Focus Economia. Allora, dalle opere infrastrutturali per i trasporti su gomma, su rotaia, che dobbiamo chiudere e continuare a appaltare rapidamente le 30 prioritarie, andiamo a chi ci viaggia sulle autostrade italiane, sulle strade italiane, quindi il mondo dell'autotrasporto. Ringrazio il segretario generale di Confartigianato Trasporti, Sergio Lomonte. Buonasera Lomonte. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, io poi domani continuerò questa intervista, però vorrei capire se la vostra preoccupazione è quanto, diciamo, ha fatto emergere Sole 24 Ore domenica e Radio 24, quindi sempre lo stesso gruppo, lunedì, ossia la dichiarazione del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che ha detto stiamo tagliando i cosiddetti SAD, i sussidi ambientalmente dannosi, e 2 miliardi e 600 di questi sono riferibili al trattamento fiscale tra al differente trattamento fiscale tra benzina e gasolio, con il diesel, come si chiama in gergo, che costa meno. È questo il vostro timore? Che poi vada a ricadere sulle accise? Sì, esattamente questo qui, perché il ministro Costa ha lanciato, non è soltanto un'idea, ma ha lanciato una consultazione pubblica su questo, per cui siamo già purtroppo in fase avanzata, speriamo che non venga tramutata in proposta di legge effettiva nella prossima manovra di bilancio, perché sarebbe un colpo letale al settore del trasporto, della logistica, ma sappiamo che di accise agevolate sul gasolio gode tutto il mondo della mobilità, quindi pensiamo anche a tutto il trasporto pubblico locale piuttosto che altri settori afferenti al trasporto su strada, quindi non soltanto l'autotrasporto, merci, così come lo pensiamo. È una preoccupazione che nasce dal fatto che per anni si è voluto dare un trattamento fiscale di privilegio al diesel, al gasolio, proprio perché si reputava questo tipo di carburante comunque molto più rispondente alle necessità climatiche di tutela ambientale rispetto alla benzina, ecco perché il differenziale. Tra l'altro è stata la motivazione che ha indotto imprese e cittadini, perché ciò riguarderà anche l'uso privato delle automobili, quindi, allora questa è la trazione a diesel, immagino, no? Fosse questo Lomonte, però domani quando l'arriveremo ospite io vorrei capire una cosa, è chiaro il ragionamento, è chiaro che non si può fare un aumento d'accise in questo periodo, però è anche chiaro che l'Europa chiede una trasformazione verso una maggiore sostenibilità diciamo ambientale. Vorrei capire domani da lei come si tengono assieme le due cose, se il problema è solo dare più tempo al settore, non avere un'operazione drastica che porti subito in un colpo solo l'aumento delle accise. Quindi ringrazio il segretario di Confartigianato Trasporti che avremo ospite domani. Ringrazio anche l'ascoltatore che mi dice che non è vero che gli Stati Uniti sono una democrazia, e dice guardate, possiamo metterla come volete, tornando al punto di apertura, potranno non essere una democrazia che piace, ma sono una democrazia. La Cina non è una democrazia. Dopodiché se qualcuno avesse dei dubbi può andare negli Stati Uniti a protestare o può andare in Cina a provare a protestare, magari a Hong Kong, e vediamo cosa succede. Io la Cina la conosco come conosco gli Stati Uniti. Mi sembra che la differenza sia netta. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Puoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.